I giorni si seguivano così rapidi che prima che la gioia di uno fosse goduta appieno, già un altro lo seguiva. Non frequentavano ritrovi, egli non usciva che per andare in ufficio, quello vecchio dove ora, partito Bungì, era solo. Dall'ufficio tornava di corsa alla loro linda casetta e così passavano i giorni e i mesi senza che si desiderassero mutamenti. Lui perché era già una così dolce novità avere tutta per sé la sua casa e la sua donna, e lei perché si sentiva veramente regina. Egli pensava, finora non l'avevo mai conosciuta. Solo adesso, infatti, s'avvedeva che ella appariva più veramente libera nel disimpegno delle quotidiane faccende. Quando erano stati insieme sul monte, lei, così pensava Iwan, era stata perfetta, anzi un pochino più che perfetta, come se tutti i suoi atti e tutte le sue parole fossero stati ispirati a un unico concetto. Ma ora, passata la luna di miele, nell'ardore che metteva nel disbrigo delle faccende domestiche e nell'ordinare la casa secondo il suo genio, si dimenticava di lisciarsi sempre i capelli e di stringersi impeccabilmente alla vita l'alta fascia. Girava invece per le stanze, a volte in un kimono di cotone stretto alla cintola da una striscia dello stesso panno che sostituiva la fascia tradizionale, e usava rimboccarsi le lunghe maniche come le servette. I capelli erano sciolti e più di una volta, rientrando in casa, Aiwan la trovò con la faccia sporca di carbone, segno della sua incessante attività in cucina. C'era sempre un buon pranzo pronto per lui. Tamà era una cuoca zelante e presto egli s'avvide che lavorare in cucina le piaceva. Una minestra ogni giorno diversa e almeno due piatti di portata lo aspettavano ad ogni pasto. E ogni piatto era una sorpresa. Ella sollevava con gioioso orgasmo il coperchio dei piatti e scopriva un grosso crostaceo o polpettine di carne o di pollo, avvolte a pallottola e cucinate a puntino col vapore e sommerse sotto una densa salsa a base di giuncata. «Come mai sai tante cose?» domandava lui. Ah, e non immagini quante cose ancora so, rispondeva lei con fierezza. Ci sono decine di cose che non ho ancora fatto per te. Prima di allora Iwan aveva sempre dato scarsa importanza al mangiare. Durante la sua vita di scapolo in Giappone si era, in certo senso, compiaciuto di mangiare a casaccio, frugalmente, per una specie di espiazione dello sciupio della casa paterna. Spesso finiva in un ristorante a sfamarsi con una tazza di gnocchi in brodo di carne, come un tiratore di rickshaw. Fra sé pensava, questa roba è buona per tutti. Ma quello che ora Tamà gli dava era migliore. Tamà era frugale quanto bastava per soddisfarlo e lo nutriva bene, ma senza sciupii. Per Aiwan era motivo di divertimento vederla calcolare con un grazioso aggrottar della fronte quanto sarebbe occorso per la servetta. Nella casa paterna di Aiwan, i servi rubavano a mansalva e nessuno se ne curava. A lui ora piaceva pensare che in quella sua nuova casa Tamà misurava e teneva conto di ogni cosa. Qualche volta gli tornava il pensiero di Enlan e avrebbe voluto farsi vedere da lui. In quella casa ora non c'era nulla di che vergognarsi né davanti ai ricchi né davanti ai poveri. Sorgeva la casa su di uno sperone a terrazza sul pendio della collina, un po' fuori della città. Per Aiwan quello era diventato un luogo di perfezione sopra ogni altro. La casa era semplice, linda e tranquilla. I pavimenti erano coperti di stuoie argentee, le pareti erano altrettanti telai scorrevoli coperti di carta. Di giorno, aperti, permettevano che la casa fosse inondata di sole e di luce. Ma alla sera si potevano ricollocare a posto facendoli scorrere sulle loro guide, e allora la casa si divideva in piccole e comode stanzette separate, una per i libri di Aiwan, dove egli si rifugiava a leggere e a fumare mentre Tamà finiva di preparare il pasto serale, e una dove dormiva con lei i sonni profondi e sicuri degli eternamente innamorati. Intorno alla casa era un giardino ineguale, dove le domeniche egli lavorava con Tamà, qualche volta sotto gli occhi del signor Muraki, che veniva a dar loro consigli senza fine, e laggiù c'era il mare. Il mare, mormorava dopo lunghe riflessioni il signor Muraki, il giardino deve intonarsi col mare, il mare è il vero scenario del giardino, il quale deve condurre l'occhio oltre i suoi confini, verso i lontani orizzonti. Ogni domenica, regolarmente, saliva la stradetta tortuosa sul fianco della collina e fu sotto la sua guida che Tamà e Aiwan costruirono il giardino, roccia per roccia. In quelle ore pacifiche era difficile vedere nel vecchio gioviale e indaffarato il burbero che aveva vietato si portasse il lutto a un figlio morto e che era stato lì lì per abbandonare la propria figliola. Ma in lui c'erano inconciliabili dolcezza e severità, ciascuna ad accettarsi come e per quello che era. Alle sue mani esperte, Tamà e Aiwan lasciavano l'ultima sforbiciatura dei rametti delle vecchie siepi e quelle mani, con l'antica e spietata delicatezza, tagliavano e tagliavano finché Aiwan, preso da panico, pensò: non lascerà più nulla. Dopotutto, questo è un giardinetto di due palmi. Ma ad opera compiuta fu evidente che chi aveva avuto ragione era stato il vecchio e gli aveva lasciato l'essenziale. L'essenziale che in realtà soltanto ora tutti e due cominciavano a rettamente valutare. Il vecchio aveva costretto gli alberi a forza di forbici e potatoio ad assumere forme contorte, piegate e stranamente belle, come forgiate a quel modo dal mare. Venite, disse il vecchio muraki, il volto lustro di sudore e di felicità. Venite, guardate di qui. Obbedirono. Davanti a loro, attraverso il vano dei telai scostati, il giardino apparve come un sentiero, all'estremità del quale gli alberi si dividevano, quasi aperti dai venti, cancello per sempre spalancato sul mare. L'autunno arrivò così in fretta che Aiwan quasi non ci credeva. Ma una mattina, levandosi dal letto, Tama disse: «Questa notte ha gelato». Quando egli uscì per andare all'ufficio, lei lo accompagnò nel giardino. I fili d'erba erano orlati di brina e l'umidità intorno alle pietre si era raggelata in ricami argentei. Rientrando nel tardo pomeriggio, Aiwan la trovò di nuovo nel giardino intenta a scopare le prime foglie cadute. «Siamo in autunno?» domandò col tono di chi non ci crede. Ella accennò gioiosamente di sì. Aveva le guance rosse per il lavoro all'aria aperta e un aspetto più che mai giovanile, che si accentuò allorché un intimo pensiero le fece assumere improvvisamente un'aria risentita. «I crisantemi cominciano a mostrare i loro colori», disse. «Due non mi paiono giusti». Avevano comperato quei crisantemi in vaso un mese prima da un merciaio. Ce n'erano sei, tanti quanti avevano potuto collocarne in un angolo del giardino. Tamà prese Aiwan per mano e lo accompagnò a vedere. «Quei due sono gialli comuni», spiegò, «e noi li abbiamo comperati tutti per rossi e oro». «Oh, immagino che il merciaio ne aveva troppi», disse Wan, sorridendo alla sua indignazione. «Ah, se lo rivedo», disse vigorosamente Tamà, «mi farò restituire i soldi». Parlando, ricominciò a scopare. «Sono certo che lo farai», replicò ridendo lui. «Aspetta che prendo una scopa anch'io». Andò in cucina, si armò dell'arnese e scoparono insieme il giardino. Improvvisamente ella si fermò e sedette a riposare sulla panchina di bambù. «Sei davvero stanca?» le domandò Aiwan e, vedendola che rispondeva di sì col capo, si stupì. Non era uno spettacolo comune veder Tamà stanca. «Ma stai bene?» le domandò. «Benissimo». Egli continuò a scopare, alzando a intervalli gli occhi per guardarla. A ogni occhiata la vedeva con gli occhi fissi sul tranquillo mare serale. «Che cosa guardi?» le domandò avvicinandosi a lei. «Mi piacerebbe conoscere i tuoi genitori», disse improvvisamente Tamà. «Mi piacerebbe conoscere la tua famiglia, la tua casa, laggiù attraverso il mare», e indicò l'oceano. Egli non aveva pensato ai genitori da mesi. Dopo il matrimonio aveva scritto, mandando loro una fotografia di sé e di Tamà in abiti nuziali, e aveva avuto una gentile risposta da suo padre. Sua madre non scriveva mai, ma in cambio aveva mandato un dono di sete e di rasi ricamati. Tamà li aveva ammirati e li aveva riposti coi preziosi pannelli e coi dipinti che costituivano i loro doni di nozze. E ora gli parve improvvisamente di vedere laggiù attraverso la distesa dell'acqua lucente nel crepuscolo la gran casa quadrata nella quale era cresciuto dall'infanzia. Gli parve persino di sentirne l'odore nelle nari. quell'odore che un tempo sembrava sempre in attesa di lui quando rientrava dalla scuola. Una miscela dell'aroma dell'oppio della nonna col tanfo dei tendaggi pesanti, dei tappeti alti e polverosi e dei vecchi legni lucidi. Non era una grata reminiscenza quell'odore, e per cacciarla respirò profondamente l'aria marina. Perché vuoi vedere i miei genitori? Le domandò. Perché, rispose lei con solennità, sto per diventare veramente una della tua famiglia. A tutta prima egli non capì. Voglio dire, spiegò, che finora non sono appartenuta che a te. Sono stata parte di te finora, ma ora sto per avere un bambino, il che per noi vuol dire che appartengo ormai alla tua famiglia e non più alla mia. Qualche volta di notte egli aveva pensato a quel momento, ma non gliene aveva mai parlato. Se ne era vergognato e lei, dal canto suo, pareva non avesse avuto pensieri che per la loro comune vita. Aiwan si era domandato come farà a dirmelo. Aveva molto pensato ai figli e si era anche domandato se veramente ne desiderava. Le figlie, dato che ne avesse avuto, importavano meno. A buon conto avrebbe potuto darle in spose a dei bravi giovani giapponesi, ma se avesse avuto dei figli, non sarebbero essi stati cinesi? E in tal caso, come avrebbe fatto a spiegare loro che non vivevano nel loro paese? Qualche volta aveva quasi paura dei suoi figli. Di là dal venire. E ora Tamà, a proposito del figlio nascituro, cominciava il discorso parlando a mo' d'esordio della sua famiglia. Egli della sua famiglia aveva parlato pochissimo con lei e non aveva mai fatto cenno alle circostanze nelle quali suo padre lo aveva fatto emigrare. Nulla del suo passato, così gli pareva, aveva a che fare con Tamà. D'altronde, si domandava se lei lo avrebbe mai capito qualora si fosse azzardato a parlargliene. A Tamà era stato ispirato un tale terrore della parola rivoluzione che Aiwan non si era mai azzardato ad aprir bocca sulle sue passate vicende. Per quanto anelasse alla confessione e vedesse chiaramente che non era mai stato un vero rivoluzionario, diversamente da Elan. Ah, egli era uno di coloro che nascono per la rivoluzione. Non importa come e dove è attuata. E se non fosse stato rivoluzionario in patria, lo sarebbe stato all'estero. Nella rivoluzione egli trovava la sua sola soddisfazione, la sua unica pace. Non gli importava nulla di coloro per cui combatteva, amava la lotta e basta. Aiwan invece aveva più amato il popolo che non la lotta e ora vedeva bene una cosa, che in cuor suo la lotta la odiava. Più sincero, gli pareva, era non dir nulla a Tamà e far sì che ella lo vedesse quale egli era adesso. Un Aiwan più veramente se stesso di quello che un tempo aveva fatto combutta con Elan, e a Tamà non aveva mai neanche spiegato perché non l'aveva portata a far conoscenza dei suoi. Perché non andiamo a casa tua ora? Gli domandò lei. Aiwan, perché taci? Non lo vuoi il bambino? Quei suoi sguardi incerti l'avevano inquietata. Egli si affrettò a rassicurarla. Ma come puoi dire una cosa simile? Ho pensato centinaia di volte a questo momento. No, no, non ti porterò a casa mia. Perché no? Insistette lei. Sarebbe giusto che io incontrassi mio suocero e mia suocera. Toh! E io ti credevo una moga, ribatté lui cercando di far la voce allegra. Credevo che le ragazze moderne non tenessero granché oggigiorno in conto a conoscere le loro suocere. Io, Aiwan, sono una moga, precisò lei. Quando la sentiva sentenziare così non gli riusciva di trattenere il sorriso, ma ora non volle sorridere, l'avrebbe offesa. Imparava a conoscerla, sapeva che quella sua piccola moglie giapponese non era tipo da lasciarsi prendere troppo facilmente a gabbo. Ma certe cose, dopo tutto, sono giuste, concluse invece per lei. Come hai fatto a indovinare il mio pensiero? Egli avrebbe potuto rispondere perché ti ho sentita dire così altre volte, ma anche questo aveva imparato a non dirlo. Preferì domandare: è questo ciò che pensi, non è vero? Sì, e specialmente adesso, rispose lei con molta gravità. Poi, dopo breve pausa, e quando una donna sta per avere un figlio, è strano, ma gli impulsi della moga si calmano. Ella pensa piuttosto a cose all'antica e al modo come proteggere il suo bambino o la bambina, insomma, alla famiglia. La mia famiglia, temo, non potrà proteggerlo, disse a voce bassa Iwan. Ma se non erro, tuo padre è ricco, domandò lei. Mi dicesti una volta che era potente. Egli avrebbe dovuto dirle che nemmeno la ricchezza e l'autorità di suo padre bastavano forse a proteggere un bambino nato da una donna giapponese, ma non gli resse l'animo. Quelle parole avrebbero distrutto qualche cosa in quella casa tranquilla e serena, si sarebbero come abbarbicate al cervello di Tamà, le si sarebbero nascoste in cuore come una malattia. Non sarebbe riuscita a dimenticarle e finalmente se ne sarebbe servita contro di lui. No, amandola come l'amava, con tutto il cuore, non poteva dirle: la mia gente, Tamà, odia la tua. Non quando stava per venire al mondo quel loro bambino o bambina, sangue del loro sangue. Ti voglio per me, disse cingendole una spalla con un braccio. Resta Moga, Tamà. Anch'io sono Mobo. Noi viviamo ciascuno per conto nostro, tu e io. Non abbiamo bisogno di famiglia. Ci bastiamo a vicenda e provvederemo da soli i nostri figli. Lei lo guardò dubbiosa. Non potranno mica sempre abitare con noi i nostri figli, disse. Noi invecchieremo e morremo. Ma per ora saranno una fila, rispose lui, e insegneremo loro a sostentarsi a vicenda. La casa sarà troppo piccola per loro. L'allargheremo, tagliando più profondamente nel fianco della collina, ribatté Aiwan. Beh, costerebbe meno trasferirci in una casa più grande, disse Tamà, sopra pensiero. Ma egli non ne volle sapere. No, Tamà, disse, non lasceremo mai questa casa. Mi parrebbe di cattivo augurio lasciarla. Ah, e ti proclami un mobo, esclamò lei. Un mobo, e credi al cattivo augurio. Risero insieme di quel non nulla come bambini. E finalmente Tamà si asciugò gli occhi con un lembo della manica e gli domandò: di che cosa parlavamo prima di dire queste sciocchezze, Iwan? Mi pare che tu stessi annunciandomi che stiamo per avere un bambino o una bambina? Un maschio, lo corresse subito lei. A me piacerebbe una femminuccia. Sono certa che avrò un maschio, dichiarò lei. Risero ancora, dimentichi di tutto. Bungi non era ancora rimpatriato. Un anno prima c'erano stati dei disordini a Shanghai, disordini che secondo i giornali non avevano avuto alcuna importanza. Un battaglione di rinnegati cinesi si era battuto con nuclei giapponesi. La cosa non era parsa importante, ma pochi giorni dopo a Bungi era arrivato l'ordine di partire per Shanghai. Da allora era passato un anno e le cose, almeno in apparenza, non si erano aggravate. Il vecchio Murakami preannunciava per l'estate il ritorno di Bungi. Nell'attesa, in primavera, nacque il bambino di Aiwan. Lui non aveva mai assistito prima d'allora al ciclo della nascita. Se fosse nato tra la poveraglia di un villaggio come Lan, la cosa non avrebbe avuto misteri per lui. Fra quella gente, lo sapeva bene, l'unione del maschio con la femmina e la nascita di un bambino erano fenomeni altrettanto naturali come il bere e il mangiare. Nulla era segreto. Ma nella grande casa dove Aiwan era nato, cose come quelle erano nascoste e Aiwan era l'ultimo della famiglia. Né perciò la nascita del suo bambino fu un'esperienza totalmente nuova che gli parve un miracolo. Miracolo fu vedere Tamà occupata nel suo materno lavoro, attenta a mangiare o a bere questa cosa piuttosto che quell'altra, per fare saggio, forte e sano il nascituro. Per fargli crescere i denti bianchi e diritti, per fargli neri e lustri i capelli e gli occhi e liscia la pelle. Attenti poi a che non ingrossasse troppo, perché se troppo grosso sarebbe nato male, perciò in certa giornata scelta per dare l'annuncio alla famiglia, ella si strinse un cordone alla cintola e cambiò cibi affinché il figliolo che doveva nascere nascesse forte ma piccolo. Aiwan, pur meravigliandosi a tanta esperienza, pensò bene di prendere in casa una levatrice affinché gli tenesse d'occhio la moglie, ormai prossima al parto. Nulla però serviva a persuadere Tamà a smettere i lavori domestici e la cura del giardino. Fino all'ultimo curò la sua casa. Il lavoro servirà a tenermi in forze, diceva, e non smise se non quando fu l'ora, rifiutando ogni aiuto di medici. Chiamerai il medico soltanto se sarò in punto di morte, disse al marito, e insisterai perché faccia di tutto per salvarmi. Diversamente, la levatrice basta. Le ho insegnato a lavarsi bene le mani e a far bollire tutti gli oggetti che adopera. Lui avrebbe voluto protestare e farle presente come, da moga autentica, avrebbe dovuto rivolgersi di più alla scienza, non fidandosi troppo della levatrice e dei vecchi sistemi. Ma lei lo costrinse a silenzio, mettendogli una mano sulla bocca. Voglio che nostro figlio nasca qui, in casa, lo pregò. Se ricorressi a un medico mi ordinerebbe di andare all'ospedale, dove finirei col bambino in un mucchio d'altra gente, e io invece voglio che nasca qui, assicurandoti, Aiwan, che avrò cura di lui. Non temere che non sia stata istruita sull'esistenza di microbi pericolosi. Non gli restò che cedere. Sì, anche lui desiderava che il bambino nascesse in casa. E quando saprò che l'ora sarà davvero venuta, precisò lei, tu dovrai andartene dove non potrai sentirmi. Non solo, ma non dovrai venire se non quando ti farò chiamare da una domestica. Io? Lasciarti? Ma lei gli impose ancora il silenzio. Sì, devi lasciarmi, so il fatto mio. E bisognò cedere. Incerto, mite giorno di primavera, alzandosi alla mattina, egli notò che Tamà aveva una faccia diversa da quella solita. Ci siamo, gli disse. Presto, presto, vattene. Dove devo andare? Domandò sgomento Aiwan. Dove? Ma in ufficio, naturalmente, fu la risposta. Come in un giorno qualunque, gridò quasi lui, non credendo alle sue parole. Oggi non posso lavorare. Sì, insistette lei, ansimando già un poco. Lo devi. Non pensarci, lavora come se non accadesse nulla. Di' a te stesso, quello che accade oggi a Tamà è molto comune e si ripeterà chissà quante altre volte. Io devo continuare il mio lavoro. Ma non mi reggerà l'animo. Fai come ti dico, parti subito dopo colazione. Volle servirlo lei, nonostante gli cercasse di farla riposare, adducendo che il riposo avrebbe fatto bene al bambino. Sarebbe nato forte il bambino se era in forze lei, ma quando finalmente s'avvide che proprio nulla spuntava e che tratto tratto lei mutava colore, trattenendo a fatica un gemito mentre il sudore le stillava dai pori, si precipitò fuori come gli aveva ordinato. Eh sì, Tamà avrebbe sempre fatto a suo modo e lui che le voleva bene avrebbe sempre ceduto. Così, si diceva, ricordando il sudore che le inumidiva la radice dei capelli neri e le trasudava dal naso e dal morbido labbro superiore. E Tamà aveva sempre ragione quando si trattava di lei. Prima di mezzodì, la loro piccola cameriera venne ad annunciargli che gli era nato un figlio. Egli piantò subito in asso l'ufficio e si precipitò a casa. Mai aveva corso così. Dei tiratori di rickshaw gli offrirono il loro veicolo, ma egli non ne volle sapere. Ah, faccio più presto con le mie gambe! Gridò, inseguito dalle loro risate. Corre incontro a un amante, dissero. Ma no, quell'insinuazione non poteva tollerarla. Si fermò un istante e urlò di rimando. Mi è nato un bambino! E via, su per la stradina di campagna verso la sua casa. Sua suocera gli venne incontro col viso leggermente congestionato. È un bambino fortissimo, disse. Nessuno dei miei può reggere al confronto, salvo forse anch'io. Egli dominò la sua fretta e si ricordò del dovere di inchinarsi coi debiti modi, ma poi pensò che sarebbe stato meglio che la suocera non ricordasse il morto anch'io in un momento come quello. Era di malaugurio parlare dei morti. Così diceva sempre sua madre nel giorno della nascita di un bambino. Ma vedendolo, il suo bambino, si dimenticò di tutto. Non poté trattenere il riso, notando che l'infante, secondo il tiro che giocano talora i neonati e che dura per alcuni giorni, somigliava a suo nonno, il vecchio generale, come una goccia d'acqua somiglia ad un'altra. Nulla di Tamà nella faccina rugosa e quasi augusta del neonato. E il sangue di Aiwan aveva prevalso.